Buongiorno. Che vuol dire? Che il Covid è nottambulo. La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? No? E se non sta un metro e mezzo, no. Buongiorno. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico, smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid! Non c'è niente! Lo sbarco sulla luna è stato finito. Abbiamo fatto gli studi in 70 e noi siamo arrivati a 70. Stavo di qua mutando la fascia, pezzo di merda! Pezzo di merda! Te sputo, che fai? Buongiorno. Buongiorno, un cazzo! Runtime Radio! Ne fa un'altra. E dite la verità, carissimi amici di Runtime Radio, quanto vi è mancata questa sigla? A me mi è mancata veramente tanto, perché mi manca poi questa trasmissione. Però devo dire la verità, la mattina trovare la forza e trovare un tema a volte è veramente complicato. Però insomma, bisogna, diciamo che per la prossima stagione mi riprometto di farne almeno una settimana live, così che insomma troviamo anche il modo per stare insieme, per fare queste prime bestemmie della prima mattina che insomma ogni tanto ci scappano, perché basta a mettersi a fare colazione, prendere il tablet, leggere le prime notizie e già apriresti i microfoni a go-go. Ma questa mattina non sono solo con me, c'è il nostro la bicolonna portante di Runtime Radio, siamo io e lui che reggiamo la radio così, no? Siamo sulle spalle, Alex Raccuglia. Buongiorno, un cavolo. Bene, bene. No, me lo puoi dire anche, tanto d'altronde lo dice la trasmissione stessa. Allora, buongiorno, un cazzo. Aspetta, sono nel mood giusto perché sono nel traffico di Milano. Ecco, cui, yeah. Perfetto, perfetto. Allora, 20 minuti, ragazzi, per stare insieme a voi, parlando molto velocemente, ma insomma, magari con intensità, di una cosa in particolare. Però partiamo dal presupposto che Euro 2020 se lo siamo levato dal cazzo, prima di tutto, che paradossalmente, sportivamente, questa è stata anche una bella edizione e quasi lo sport, quindi la qualità sportiva, si stava ribellando alle regole economiche, quasi, perché poi in realtà non è andata proprio del tutto così, perché sappiamo insomma tutte le polemiche che ci sono state sulle semifinali e finali relative a Wembley e quindi a Londra, con tutti i problemi di variante Delta e compagnia bella. Però insomma poi alla fine comunque in qualche maniera ce lo siamo appunto portato a casa. Ci sono due temi fondamentali, sportivi e politici, perché ovviamente il calcio oramai è un conduttore, diciamo è un veicolo anche dal punto di vista del messaggio mediatico e politico. Il primo è ovviamente il discorso dell'inginocchiamento. Con Alex non abbiamo mai parlato di questa cosa, dei giocatori che si inginocchiano per rendere omaggio comunque a una problematica. Molti l'hanno definito una scelta politica e che quindi andava contestata, perché lo sport dovrebbe essere apolitico. Io invece lo considero un gesto simbolico più che politico. Se gli vogliamo dare una connotazione politica, cioè è più di destra più di sinistra, secondo me è una scelta individuale o politica, appunto. Invece secondo me è un gesto, un simbolo anche per sensibilizzare, diciamo, in generale tutte le persone che guardano il calcio. Tu che ne pensi, Alex? Io mi sono vergognato del fatto che non si siano inginocchiati tutti sempre, appunto. Ma proprio vergognato tantissimo, e questa è una macchia veramente grossa che ogni tanto negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, quando stavamo vincendo e poi quando abbiamo vinto, me la sono goduta la vittoria, mi sono goduto la gioia, eccetera, eccetera, eccetera. Però sta roba qui, cioè, è un fantasma che comunque macchia questa edizione, e non capisco come sia possibile che, non dico il singolo giocatore di calcio, ma l'ultimo degli stronzi stagisti che lavora nel social media management non abbia alzato il ditino dicendo: ragazzi, sta roba si fa, punto e basta, senza se e senza ma. e del fatto che non ci sia stata questa, neanche questa, questo pensiero mi fa veramente pensare che veramente c'è tanto di quel nero di merda, scusatemi la parola, che non riesco a capacitarmene. Ma non nero di merda nel senso razzistico del termine, ma proprio nero in quanto oscurità, diciamo, chiamiamolo così, va, forse per non dargli una vera connotazione politica, anche se io sono assolutamente d'accordo con te. E secondo me questa cosa è stata talmente maldestra in generale, perché il farlo o non farlo, alcuni l'hanno contestato, tutto il gioco che c'è stato dietro, la polemica giornalistica, la FIGC che interviene due volte consecutive in una maniera sempre più maldestra, poi è quella la cosa veramente schifosa, vabbè, che lo sport in Italia, insomma, sia mezzo fascistoide, lo sappiamo, lo mettiamo, diciamo, in conto, no? Però a quel punto il silenzio è sempre meglio che mettere una pezza sulla pezza quando fai dichiarazioni che non c'hanno senso, perché la FIGC alla fine dice: vabbè, noi lo facciamo solo se lo fanno gli altri. Prima cosa, non c'ha senso. Cioè, tu non dai nessun valore a questo simbolo, no? Cioè, non dai assolutamente importanza a questa cosa. La fai perché la fanno l'arte, allora per estetica, diciamo, lo facciamo anche noi. E poi successivamente aggiungi: combattiamo il razzismo in tantissimi modi, ma non condividiamo questa battaglia. Perché? Cioè, nel senso. Cioè, qual è il senso di una cosa del genere? Non lo dire, lascia perdere, no? Nel senso, guarda, se rimanevate al fatto ci inginocchiamo se ci inginocchiamo gli altri, abbiamo fatto una brutta figura, finisce lì. Tu che pensi? Sì, è stata terribile, ripeto, a me fa strano. Nelle grandi aziende, ma anche nelle piccole aziende, c'è qualcuno che si occupa di comunicazione. Per la serie, ci sono un sacco di casini, certi panni sporchi ce li laviamo in azienda. E mi fa strano che una passami il termine azienda, passami il termine pubblica come la FIGC, non abbia pensato di chiedere la consulenza all'ultimo di quelli che scrive i tweet per dire abbiamo vinto, nel senso, come comunichiamo questa cosa? Cioè, nel senso, a me sembrava qualcosa da affrontare con quelle che vengono chiamate unità di crisi, cioè, nel senso, abbiamo sbagliato tutto, aspetta, vediamo di mettere i ripari. Invece qua l'approccio è stato quello: sì, ma tanto io sono il capo, io sono, decido tutto quello che voglio io. E allora il padre padrone dice: ma sì, cazzo, me ne frega, tanto non gliene frega niente a nessuno. Che poi in realtà è vero, alla è fine anche vero, gliene, sì. Gliene è fregato poco a un sacco di gente. Scusate, muoviti. Cioè, scusami, c'è il tizio con la Volvo che stava chattando e non guardava il semaforo verde, tanto per essere in tema. E poi mi fermo, adesso lo scendo e lo meno. In diretta però, chiaramente, se no. Assolutamente sì. No, sono assolutamente d'accordo con te su questa cosa. Ecco, il discorso pure padre padrone, vabbè, poi purtroppo questo è un tema che magari nella prossima edizione di Buongiorno un cazzo, se ti va, poi andremo anche a trattare. Perché è molto ampio, c'è un discorso da fare proprio sullo sport in generale. Poi ci eravamo anche ripromesso di parlare di alcuni temi che poi abbiamo accantonato per ovvie ragioni. In realtà Runtime manca una trasmissione di calcio, però siccome che ci vogliamo tutti talmente bene evitiamo di farla, perché poi è quello il discorso di fondo. Anche se ci sono dei temi universali che prescindono, insomma, dal fatto che uno è della Juve, uno della Lazio, uno da Roma e uno della Fiorentina, insomma, diciamo così. Sì, ma allora adesso facciamo un discorso a parte di 30 secondi. Secondo me, io e te, che abbiamo fedi calcistiche diverse, abbiamo anche un modo di interpretare il calcio differente, riusciremo a parlarne benissimo. Secondo me non è fondamentale. Ci sono un sacco di trasmissioni, podcast di calcio, di gente anche polarizzata, e se si diverte, se si raccontano le cose con un minimo di obiettività, si può stare. Il grosso problema nostro, adesso l'abbiamo i panni pubblici in pubblico, è le risorse più che altro temporali, nel senso, una trasmissione di calcio sarebbe bello fare una volta alla settimana, e già così siamo comunque con l'acqua alla gola, sì. E necessiterebbe di un impegno, più che dell'impegno, di una continuità che a volte, insomma, non si può fare, certo, è chiaro. Invece il tema principale che poi andiamo a chiudere in questi ultimi 10 minuti che ci siamo dedicati è questo. Io ti dico una frase che secondo me può essere guardata a 360 gradi e secondo me la frase di per sé porterebbe ognuno di noi a fare un discorso che va da una parte piuttosto che da un'altra, perché se io domando, poi dico anche la mia, no? Se io dico quanta Brexit c'è stata in questo campionato europeo Euro 2020 secondo Alex Raccuglia, ad esempio? Allora, secondo me c'è stata più Brexit nei meme che dicevano della gente che diceva: ma cacchio, ma se l'Inghilterra è uscita dall'Unione Europea, perché partecipa ai campionati europei? Vabbè, quando è fondamentalmente, cioè, un conto è parlare di un continente, un conto è parlare di un'unione economica, però vabbè, questo è. Quanto c'è stata di Brexit? Allora, prima di tutto fa strano che l'Inghilterra sia arrivata così avanti, perché di solito si fermano un po' prima, nonostante il calcio l'abbiano inventato loro. Devo dire che l'Inghilterra, con Johnson, con questa sua svolta, ce ne andiamo, siamo di meglio noi, eccetera, eccetera, eccetera, ha dimostrato, nel senso, in un momento in cui il pianeta intero, l'Europa, necessiterebbe di unione, di coesione, di sostegno reciproco, un approccio individualista, che è una deriva di molte delle nazioni che fanno parte dell'Europa, che assolutamente non porta a niente. E nel caso dell'Inghilterra stessa, del Regno Unito in realtà, posso dirlo, gliene è anche tornata a soglio dove, perché stanno avendo tanti di quei problemi, volendosi trasformare negli Stati Uniti d'Europa, nel senso, come filosofia, come impostazione economica, però non ne hanno le risorse e di conseguenza stanno crollando. Un po' come dire: voglio fare un impero, vado a conquistare l'Etiopia, presente, cioè, dove vuoi andare? Questa è stata la cosa. Dal punto di vista, passami il termine politico, io di politica non capisco una beata fava. Cosa ne è arrivato sui campi di calcio? Secondo me l'effetto totale di tutta questa cosa qua, di questo approccio ce ne andiamo, ci portiamo via il pallone, è stato: mi tolgo la medaglia perché sono arrivato secondo, che secondo me è stato un gesto altrettanto brutto, cioè non brutto, cioè il nostro è peggio, che non ci siamo inginocchiati, è stato peggiore, però è stato un approccio, come dire, ecco, non ci piace sta cosa, siamo meglio noi, ci isoliamo. E chiunque si può isolare e andare in una prigione, però non è che poi combina molto. No, è esattamente questo il discorso che mi è venuto in mente a me. Hai centrato, secondo me, un po' il punto, dal mio punto di vista, chiaramente, che secondo me l'atteggiamento, al di là del fatto che l'Inghilterra è arrivata in finale, diciamo, anche un po' a spinta e buzzichella, diciamo, il fatto che questa forzatura anche nel giocare tutto a Wembley è stato quasi un aiuto economico, no? al Regno Unito, quando secondo me, voglio dire, politicamente ci poteva essere anche un altro tipo di atteggiamento, però è quasi stata una dimostrazione dell'Europa, tipo: vabbè, voi ve ne siete andati, ma noi siamo buoni lo stesso, no? Una cosa del genere. Poi dopo loro sono arrivati in finale, diciamo, con meriti più o meno, come dici te, insomma, di solito si fermano molto prima, però è nella finale in particolare questo atteggiamento culturale tipicamente britannico, che è lo stesso atteggiamento che ha portato alla Brexit. Cioè, loro veramente ogni tanto hanno questo rigurgito, questo riemergere concettuale dell'essere del British Empire, no? Cioè, dell'essere dei signori, dei lord, coloro che hanno portato la civiltà nel mondo, che hanno portato il calcio, appunto. Vabbè, poi se lo sai, il calcio è ancora più ridicola, no? Perché ci hanno fatto anche una serie televisiva, tra l'altro, su sto fatto, quindi, cioè, mi viene da ride, no? Nel senso che questo atteggiamento, fino ad arrivare al punto in cui loro erano in finale ed erano convinti che questa loro britannicità in qualche maniera li avrebbe fatti trionfare. C'era proprio questa sensazione, si respirava questa atmosfera qua, cioè in un contesto dove tutto il resto d'Europa è ancora spaventato da tutte quelle che sono le problematiche legate al Covid. Loro riempiono lo stadio in 60.000 cantando il calcio è tornato a casa. E poi che è successo? È successo che i giornali, il giorno dopo, io poi non voglio fare una questione di merito, non finisciato l'inno, chi se ne frega, no? Cioè, nel senso, l'abbiamo fatto tante volte anche noi, tutte ste puttanate. E il problema è che il giorno dopo nessun giornale inglese ha detto che ha vinto l'Italia. Nessun giornale inglese, in generale, cioè, nel senso, e questa è la cosa più sconvolgente, secondo me. Cioè, loro titolavano Orgoglio dei Leoni, siamo caduti ma ci rialzeremo. Cioè nessuno ha citato il fatto che c'era un altro avversario dall'altra parte e che per un motivo o per un altro magari è stato più forte di te. Ci sta, no? Non è che succede niente. Ecco, io in questo ci trovo molta Brexit, no? Cioè nel senso, comunque per loro era quasi una sorta di riscatto, come dici te, da questo approccio che hanno di isolazionismo, del fatto noi siamo British, ce ne stiamo per i cazzi nostri e vinciamo anche, no? E invece non hanno vinto. Secondo me sta cosa è stata un po' una mazzata per loro. Sì, credo proprio di sì, perché allora io devo essere sincero, l'ho sempre detto. Italia e Inghilterra sono stati i paesi che hanno più sofferto per via di questa pandemia. L'Inghilterra ha avuto veramente dei grossi problemi anche perché li hanno affrontati nel modo americano, cioè tendenzialmente Johnson ha detto vabbè c'è un sacco di gente che muore, fatevene una ragione, non rompete il cazzo. Che è quello che anche qualche italiano ha detto, che però fondamentalmente diciamo che si è cercato di nascondere questa cosa sotto il tappeto. Noi ce le ricordiamo tutti i primi due mesi di lockdown, quando eravamo talmente spaventati e non sapevamo cosa fare, la gente moriva a grappoli. Poi ne è morta più a grappoli dopo, però l'atteggiamento era diverso. Detto questo, eravamo le due nazioni più stanche, più distrutte, più affaticate. Io ho detto, beh, secondo me chi vince comunque si porta a casa quel 2-3 giorni di ottimismo che non fanno male, sì, a uno spirito ferito. L'approccio politico dell'Inghilterra, non delle persone, del politico, trovo che sia sbagliato, per cui tendenzialmente mi sono detto, sai che c'è, dal punto di vista globale se lo vinciamo noi forse ci va anche un po' meglio, perché tendenzialmente con tutti i nostri difetti, ne abbiamo 200.000, l'approccio di sei povero dunque non ti curo non esiste, anche da loro però sta cambiando, mentre da noi ancora questa cosa resiste, lo vedi nel fatto che comunque un sacco di personale sanitario si è fatto un culo così, è morto per arginare questa valanga, certo, che ci veniva addosso. Certo, aggiungiamoci anche che dal punto di vista strettamente sportivo, sono d'accordo su tutto quello che hai detto, aggiungiamo anche che dal punto di vista sportivo è vero che la nazionale italiana, comunque il calcio in qualche maniera crea quella coesione che altrimenti non esisterebbe, però è vero pure che dall'altra parte, sai, anche a quelli come me che alla fine gliene frega fino a un certo punto, e lo spagnolo de snobba, il francese de snobba, l'inglese de snobba, erano tutti meglio di noi, no? Che noi venivamo ovviamente da una fase critica anche dal punto di vista sportivo, perché venivamo da un mondiale non qualificato, quindi insomma alla fine è stato veramente un po' i poveracci contro i signori, no? Cioè, nel senso, in qualche maniera, anche perché loro sembravano un po' i predestinati, che poi oggettivamente, a parte due o tre elementi veramente fuori classe, io tutto sto squadrone l'Inghilterra non l'ho manco visto, insomma, poi però è un altro. E quindi alla fine, ecco, insomma, diciamo che tra le due nazioni, secondo me, che hanno sofferto di più, come giustamente dici tu, è uscita fuori quella che veramente ci aveva più la rabbia, forse il bisogno, ecco, forse il bisogno, perché secondo me loro poi alla fine, col fatto che hanno liberalizzato molto, se ne sono resi conto fino a un certo punto di tutto quello che sta succedendo, c'è questa sensazione qua. Alex? Guarda, avendo ricevuto una telefonata, mi ho telefonato in crisi, mi puoi richiamare? Ok, allora, adesso lo richiamiamo. Scusate, queste sono le cose belle della diretta, però sì, ho sentito che aveva ricevuto una telefonata, quindi ci riproviamo con Skype, come sapete, insomma, rieccoci. Eccoci, scusa, ma vedete, il capo alle 8.40, cioè 20 minuti prima dell'orario, mi chiama e il telefono dice, oddio, non so che cacchio fare, che cazzo. Chi devo dare retta? Skype, al telefono? Esatto. Lo so, questo è ancora. Fino a che non faranno i telefoni quantistici. Così a cazzo di cane. Una parola che non c'entra niente. Va bene. Non ho sentito un cazzo di quello che hai detto, ma c'hai ragione sicuramente. Infatti. Senti, allora, Alex, no, è stato interessante. Però, ecco, noi secondo me dovremmo trovare prima o poi uno spazio la mattina mentre che andiamo, magari per la prossima stagione, dove chiacchieriamo dei cazzi nostri, insomma, che è sempre molto carino. Alex, fra circa 20 minuti inizia la programmazione di Runtime, quella classica dalle 9 alle 15, dalle 11 alle 17 e alle 13 e alle 19. Oggi ci sarà un'ennesima puntata di Summer Radio. Ora ti dico anche quale, così magari se te le ricordi ce la introduci. La 68, non so se ti dice qualcosa. Assolutamente no, però apro la mia app e ti dico se la trovo. Ok. Così, così intanto insomma finiamo anche di farci un po' di pubblicità per introdurvi a quello che sarà ovviamente la giornata di oggi. Ah sì, bella puntata storica. Dici. La puntata 68 si chiama Senza Parole e sono tutti brani musicali senza parlato, senza bello, cantato, solo musicali. Me la ricordo bella e insomma me la riascolto volentieri. Benissimo, io sempre purtroppo alle 15, anche se poi tengo sempre un orecchio su Runtime Radio per ovvie ragioni. Alex, quindi alle 9 e alle 15, ricordate MDB Summer Radio come tutti i giorni fino a fine stagione, insomma ci farà compagnia. Poi vedremo quello che succederà a settembre, insomma dobbiamo un po' riorganizzare tutto un po', ma poi alla fine, lo sapete, noi riorganizziamo tutto ma resta tutto tutto com'è che è. Però insomma tante novità quest'anno. Ci sarebbe da fare una sorta di puntatona di finale stagione un po' tutti quanti insieme, un po' a caciara, insomma sarebbe carino. Il capo mi richiama, facciamo che rispondo e saluto tutti gli ascoltatori. Ok, ciao! Allora, salutiamo dunque Alex, che giustamente c'ha da fare, insomma, non è che si tratta di briscole, ma si tratta chiaramente di lavoro. Carissimi ragazzi, buongiorno un cazzo, questa versione è un po' strana, vi serviva un attimo per discutere su che cos'è che sta succedendo nello sport, che cosa sta succedendo nel Regno Unito, quanta Brexit c'è stata all'interno di questo Euro 2020, quanta recriminazione e anche rivendicazione politica c'era all'interno di questa manifestazione. Secondo me tanta e secondo me forse anche troppa. Io spero sempre che lo sport continui ad essere un veicolo anche di messaggi, indipendentemente dal discorso politico, però laddove c'è una recriminazione umana, dove c'è un qualcosa che è stato sempre un problema da un punto di vista della sofferenza di un certo tipo di minoranza piuttosto che di un altro, lo sport deve essere sempre veicolo. E se questo veicolo si deve fare con un gesto che riporta un qualche cosa, i gesti spesso e volentieri hanno più forza delle magliette con la scritta non al razzismo, che a volte sono ridicole. Grazie a tutti e per questa stagione diciamo che è tutto. Per Buongiorno un cazzo, ritornerò a settembre e cercherò di organizzarmi come si deve. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, grazie a Michela che l'ho vista in chat, grazie a Alex che ha partecipato con me. Ciao e spero che non sia Buongiorno un cazzo per tutti voi.